abbiamo una certa salute, abbiamo una mente chiara, abbiamo incontrato insegnamenti Mahayana, del Sutra, ma per certi anche del Tantra, siamo sotto la guida di esseri che hanno attualizzato questo sentiero, quindi abbiamo l'opportunità, ci è dato un'opportunità ancora oggi, ancora adesso, di fare qualcosa di molto significativo. Okay? Quindi possiamo, applicandosi, possiamo fare che questa mente diventa una fonte di felicità e di beneficio non soltanto per noi, ma anche per tutti gli altri. Okay? Quindi questo con questa motivazione che si dovrebbe avvicinare all'insegnamento. Okay? Quindi dobbiamo pensare che dobbiamo cercare di fare sforzo, okay, nell'ascolto, nella riflessione, nella pratica, in modo di ottenere questo stato bu di Buddha e in quel modo, dopo aver percorso il sentiero, saremo effettivamente in grado di aiutare gli altri, tutti gli esseri che sono state le proprie madri del passato, ad aiutarli a emergere di questa condizione di difficoltà, di sofferenza, di insoddisfazione, finché la loro mente dimora in felicità, in serenità, in beatitudine. Okay? Quindi questa mente che ricerca l'ottenimento di questo risultato per il più grande beneficio degli altri si chiama la mente di Bodhicitta e questo determina l'entrata nel grande veicolo. Okay? Quindi dovremmo cercare di avere questa attitudine con noi. Ok, quindi in termini del sentiero, dove siamo? Siamo un po' bloccati con i 12 anelli. Okay? Quindi abbiamo visto che il sentiero viene suddiviso in tre livelli di motivazione che corrispondono a tre livelli di maturazione della propria mente. Okay? Abbiamo l'essere di motivazione iniziale, che ricerca, che si avvicina quindi all'insegnamento, alla pratica, eccetera, per ottenere delle condizioni favorevoli nella prossima esistenza. E questo, diciamo, delinea l'entrata nella pratica spirituale, okay? Nella pratica del Dharma. Sì, come viene detto, no? Sì, l'insegnamento, o sì, facciamo tutti questi sforzi, no? Che vengono, sì, le meditazioni per ottenere soltanto il beneficio in questa vita, questo non fa di noi un praticante spirituale, okay? Quindi la pratica spirituale comincia quando la mente si è staccata di questa vita, un po' staccata di questa vita, e percepisce ciò che va al di là di questa vita come essendo più importante. Quindi questo è il primo livello di motivazione, il primo livello di maturazione della mente. Dopo abbiamo un altro livello di maturazione dove l'individuo ha un'intelligenza molto più acuta. Okay, ha penetrato la realtà convenzionale e anche ultima dei fenomeni, okay, e realizza, percepisce che qualsiasi sia la situazione all'interno dell'esistenza ciclica è comunque insoddisfacente, okay? È il prodotto dell'ignoranza, il prodotto dell'afflizione, okay? È impermanente, e quindi non si passa al di là del terzo tipo di sofferenza, che è la sofferenza di pervasiva di composizione, okay? Che sono cinque aggregati contaminati di appropriazione, quindi non passa al di là di questo. Quindi questa persona no, è un disincanto totale per qualsiasi sia la situazione interna dell'esistenza ciclica e ricerca l'emancipazione completa della sofferenza, okay? Quindi ricerca la liberazione in nirvana, che è l'estinzione dell'ignoranza e dell'afflizione mentale all'interno della continuità mentale. Quindi l'estinzione dell'ignoranza. Questa persona realizza che la sofferenza sorge da origine e che l'origine di queste sofferenze è questo, come metterla, fratendimento della realtà. Okay? È un fratendimento della realtà, è il concepire o il sovraimpone un'esistenza intrinseca, vera, oggettiva, okay? Sui vari fenomeni, considerare che c'è un io veramente esistente, un io, okay? Permanente, indipendente, okay? O autosufficiente o sostanzialmente esistente, comunque c'è un io vero e proprio che sì, lo ricerchiamo, possiamo rintracciarlo. Okay? Quindi, Questa persona realizza che tutto è prodotto di questa ignoranza, quindi ricerca l'eliminazione dell'ignoranza per ottenere la pacificazione completa. E poi abbiamo un altro livello di persone, di un'intelligenza ancora più elevata e di un'apertura di mente molto più pronunciata. E questa persona realizza che esattamente come lui, tutti gli altri esseri sono nella stessa condizione, okay? E che tutti questi esseri che circolano, quindi questa esistenza ciclica, sono persone con le quali lui ha avuto vari tipi di relazione nel passato, perché il passato non è inizio, okay? Quindi delle relazioni molto vicine con tutti questi esseri. Quindi assuma su di sé la responsabilità di aiutare gli altri a proteggere gli altri dalla sofferenza e quindi per essere completamente in grado di farlo desidera ottenere quindi lo stato di Buddha, che è lo sviluppo del pieno potenziale della propria coscienza, della propria mente, no? Quando tutte le qualità sono state sviluppate e tutte le varie oscurazioni, oggetto di abbandono che limitano sia la percezione sia la capacità vengono anche eliminate, okay? Quindi questo culmine della propria mente, questa purificazione completa della propria mente si chiama lo stato di Buddha, okay? Quindi ricerca lo stato di Buddha per essere di più ampio beneficio agli altri. Questa persona quindi viene chiamato il Bodhisattva. Okay? Quindi noi per localizzarci in questi tre siamo quindi ancora nelle contemplazioni dell'essere di motivazione intermedio, quindi che ricerca la liberazione, e abbiamo visto che ci sono due metodi per ottenere liberazione. Uno è la contemplazione delle quattro nobili verità, okay, che abbiamo visto, e l'altro è la contemplazione dei 12 anelli, o come l'individuo circola nell'esistenza ciclica, o come viene prodotto ancora e ancora questi cinque aggregati contaminati, ok? Ecco dove siamo. Okay? Quindi rispetto a... Quindi avete normalmente delle tabelle, sì, ok. Ok, e rispetto a questo, all'insegnamento sui 12 anelli, abbiamo già visto, che trovo la pagina. Abbiamo visto la divisione, la presentazione, l'entità individuale di questi 12 anelli, abbiamo visto la classificazione abbreviata, okay? Dobbiamo vedere insieme adesso oggi in quante vite questi 12 anelli vengono attualizzati, okay? Dobbiamo cercare di capire qual è il significato riassunto, cioè a che cosa porta la contemplazione di questo, e dobbiamo vedere brevemente il modo di contemplare, i quattro modi di contemplare i 12 anelli. Okay? Quindi facciamo un breve ripasso, perché visto che sono le persone che non erano presenti alle altre sessioni, quali sono questi 12 anelli? Allora, in breve, diciamo, mettiamola così, no? Si partiamo della nostra condizione sfortunata, no? La nostra condizione, abbiamo un corpo, ok? Avremo l'aggregato della forma, anche dell'entità della sofferenza, dobbiamo capire che dovuto avere un corpo contaminato, okay, sia, è una mente, quindi no, no, che non è sotto il controllo, il nostro controllo, ma sotto il controllo dell'afflizione mentale, come l'attaccamento, l'avversione e l'ignoranza, allora siamo sempre al vertice di sperimentare disagi fisici e mentali. Basta che le condizioni intorno a noi cambiano, o anche condizioni interne cambiano e sperimentiamo varie difficoltà, ok? Quindi a questa situazione a che cosa è dovuto? È dovuto al processo, è dovuto alla nascita, quindi si partiamo, quindi questo carattere sfortunato della nostra esistenza viene caratterizzato dal 12° anello che è vecchiaia e morte, ok? Vecchiaia si riferisce al secondo istante in poi della nascita. Okay? E la morte, quindi la disintegrazione completa delle cinque aggregati di questa vita. Quindi tramite il secondo istante, vecchiaia e morte, abbiamo tutte le varie, la massa, cioè, di sofferenza di questa vita che dovrà essere meditata a quel momento. Quando si pensa al dodicesimo anello, si dovrebbe essere in grado di portare le contemplazioni che abbiamo fatto interni dei tre tipi di sofferenza, okay? Dei sei tipi di sofferenza e degli otto tipi di sofferenza, sono inclusi in quest'anello. Quindi questa situazione a che cosa è dovuta? È dovuto, okay, al processo dovuto aver preso nascita, e questo è l'undicesimo anello. Okay? Quindi nascita dove? Nascita all'interno, cioè nascita nel senso che ci siamo associati a cinque aggregati contaminati. Okay? Quindi l'io di questa vita, esiste in funzione dei cinque aggregati contaminati. Abbiamo il corpo, okay? L'aggregato della forma, sensazione, discriminazione, fattore di composizione e coscienze. Okay? Quindi esistiamo in dipendenza di questi cinque aggregati contaminati. Visto che questi cinque aggregati sono contaminati, allora la persona che viene imputata, la persona che esiste in dipendenza di questi cinque aggregati, sperimenta la sofferenza e la difficoltà. Okay? Quindi questa nascita è stata assunta, è prodotta dovuto al karma e all'afflizione, ok? Il karma e l'afflizione. Quindi questo significa che l'individuo non prende nascita dal suo proprio potere, ok? Non ha scelta del tipo di nascita, dell'apparenza, non ha scelta delle sue esperienze di felicità o di sofferenza durante l'esistenza, del luogo dove prende rinascita, eccetera. Tutto questo è determinato dalle sue azioni, okay? Compiute nel passato. Quindi in un certo modo siamo obbligati a prendere a rinascita dovuto, possiamo metterla così, alla dittatura, no? C'è una specie di, è dovuto al controllo, sì, dell'attualizzazione del decimo anello esistenza, okay? Quindi una volta che esistenza, che il legame, l'anello dell'esistenza è attualizzato nella continuità mentale, la persona deve prendere rinascita, ok? Quindi questo anello dell'esistenza è stabilito dovuto all'attualizzazione, quindi questo attualizza il karma, ok? Questo anello di esistenza corrisponde all'attualizzazione delle potenzialità karmiche, no? Noi da tempo senza inizio compiamo delle azioni, ok? Al momento della morte c'è un processo e andiamo a attivare un'impronta karmica particolare che ha il potere di proiettare cinque aggregati in una dimensione particolare, no? In un'esperienza particolare. E quindi questa attivazione è il legame dell'esistenza, il legame dell'esistenza, o sì, l'esistenza, o l'anello dell'esistenza. E questa attivazione è prodotto da l'ottavo e il nono anello, che sono la Brahma e l'afferrarsi, abbiamo detto, no? In italiano, l'afferrarsi. La Brahma e l'afferrarsi, ok? Quindi questa formazione della Brahma e dell'afferrarsi necessita, è dovuto a soprimporre, okay? O a credere, a soprimporre, a credere all'esistenza vera delle varie sensazioni, piacevole, spiacevole e neutre. Quindi dovuto alla soprimporre vera esistenza sulle varie esperienze, c'è Brahma e afferrarsi. Okay? Quindi queste sensazioni che sono reificati o come sono sia, diciamo, sia, co colte come avendo un'esistenza reale o vera, queste sensazioni sono dovute all'incontro della coscienza, dell'oggetto e dei poteri sensoriali, ok? E questo incontro è il sesto legame, che è il legame, che è il contatto, ok? Quindi stiamo facendo il ripasso, no? Non so se stiamo risalendo, okay? Quindi un tale contatto, abbiamo visto, per fare in modo che ci sia il contatto, abbiamo bisogno del quinto anello, che sono i poteri sensoriali, le sei sfere, ok? Le sei sfere sono i poteri sensoriali. E questo, l'esistenza dei sei sferi, al suo turno, dipende del quarto anello, che sono il nome e la forma, cioè i cinque aggregati. Cinque aggregati. Cinque aggregati psicofisici. Dice così? Psicofisici? Ok. E questo, quindi... e questo anello, questi cinque aggregati, da che cosa sono proiettati, da che cosa sono sì, proiettati? Sono proiettati dall'ignoranza, okay? È l'ignoranza che motiva l'azione e quindi che proietta, che crea, che attualizza questi cinque aggregati. Quindi qui siamo nel contesto, ovviamente, di una nascita che è in base alla sofferenza, no? Quindi il nome e la forma costituiscono il quarto anello, eh? E questo quarto anello deve essere proiettato, è proiettato da ciò che produce sofferenza, nel senso che abbiamo l'ignoranza, okay? L'ignoranza produce delle afflizioni e queste afflizioni motivano un'azione. Quindi abbiamo delle afflizioni che servono di cause per proiettare cinque aggregati. Quindi questi cinque aggregati sono nell'entità della sofferenza perché? Perché la causa che ha proiettato i cinque aggregati è origine della sofferenza. Ma i cinque aggregati possono essere proiettati anche da ciò che non è causa della sofferenza. Perché, per esempio, possiamo proiettare cinque aggregati dal potere della compassione, dal potere della mente dell'illuminazione, dal potere della saggezza, e in quel modo, okay, non essendo più origine della sofferenza, i cinque aggregati che vengono proiettate da queste cause non sono più supporto di sofferenza. Okay? Quindi questa era una parentesi. Okay? Quindi abbiamo l'ignoranza. Motiva il karma lascia, a quel momento la coscienza viene lasciata una potenzialità, questa potenzialità al momento della morte viene attualizzata dalla brama e dall'afferrarsi, l'attualizzazione di questa potenzialità è il decimo anello esistenza, a quel momento, istante dopo, abbiamo nascita e quindi invecchiamento e morte. Allora, se guardiamo la tabella, l'undicesimo anello e il dodicesimo, ok? Nel senso che ciò che è attualizzato significano effetti attualizzati, ma gli effetti attualizzati non sono differenti dagli effetti proiettati, nel senso che ciò che prende rinascita è il proiettato. Ok? Che cos'è che prende rinascita? Sono nome, forme, le sei sfere, contatto, sensazione. Ok? Questo, ciò che è attualizzato, è il proiettato che diventa supporto della sofferenza. Ok? Quindi abbiamo visto anche che l'ultima volta che tra le cause attualizzante, gli effetti attualizzante, non c'è un gap, non c'è un... come si dice? Sono immediati, eh? Non c'è una... abbiamo Brahma, afferrarsi, esistenza, e quindi alla nascita non c'è uno spazio di temporale tra queste cose, una successione. Invece, tra cause proiettanti, effetti proiettanti, qui ci possa essere uno spazio di molti eoni. Okay? Vedremo adesso. Poi l'altra settimana avete chiesto, no? Abbiamo visto che ci sono vari modi di presentare i 12 anelli, c'è qualcuno che ha fatto la domanda, mi sa che non c'è, e mi avete chiesto come i Vaibhashika presentano anche il dodicesimo anello in un'azione, non vengono presentati quindi in questo contesto non presentano più il come l'esistenza ciclica si produce continuamente, la verità della sofferenza si produce ancora, ma come i 12 anelli vengono inclusi in una stessa azione. Quindi non so se siete interessati. Ok, quindi prendiamo un'azione, per esempio l'azione di uccidere, okay? Per esempio quando si va a caccia, abbiamo l'azione di uccidere, ok? Quindi l'oscurazione, abbiamo l'oscurazione che è presente o che motiva, che serve di motivazione al momento dell'azione di uccidere, questo viene chiamato ignoranza, ok? L'intenzione per queste scuole, quindi l'intenzione è il karma. Quindi karma, che cos'è? È l'intenzione. Il conoscitore è il conoscitore dell'oggetto, okay? È la coscienza, cioè nel senso che quando c'è un'azione ci deve essere anche una coscienza, no? Quindi ciò che conosce il supporto dell'azione, per esempio se desidero rubare l'orologio, okay? La mente che realizza l'orologio, questo è il terzo anello coscienza. I quattro altri aggregati, okay, che sono presenti al momento dell'azione è nome e forma. Si riferiscono ai quattro altri aggregati presenti al momento simultanei al momento dell'azione. Poi abbiamo i vari poteri sensoriali coinvolti che esistono al momento di questa azione, queste sono le sei sfere. L'incontro dei tre, l'oggetto, il potere sensoriale e coscienza al momento dell'azione sono contatto, okay? L'esperienza del contatto, sensazione. Allora, per esempio, nel caso di uccidere, l'attaccamento al mangiare, a quell'animale, alla carne dell'animale, questo è l'ottavo anello, alla Brahma. Okay? Poi il nono anello sono quello che vengono chiamati entanglements, thorough entanglements. No, non c'è qua dentro. Sono i tre legami. Sono i legami che sono, dal punto di vista di questa scuola, sempre presenti quando c'è una mente non virtuosa. Per esempio, la non vergogna o il non imbarazzo, eccetera. Quindi loro, questa scuola, perché questo è dal punto di vista vaibhashika, non è più dal punto di vista madhyamika. Quindi questi legami completi che sono presenti al momento della mente non virtuosa è il nono anello. La mente non virtuosa c'è perché abbiamo la Brahma, qui abbiamo la Brahma e l'intenzione di uccidere. E poi abbiamo le azioni fisiche e verbali motivate. Questo sono da questa azione, motivate da questa azione, questo è esistenza, il legame dell'esistenza. Okay? Poi il sorgere di ciò che non esisteva prima è nascita, okay? E la completa maturazione è invecchiamento e la disintegrazione è morte. Okay? Quindi vediamo che loro hanno anche questa presentazione dove i 12 anelli sono presenti in un'azione. Ok, questa era una parentesi. Avete rispetto a quello che abbiamo visto fin d'ora insieme, spero che ci avete riflettuto perché altrimenti non c'è beneficio in questo. Avete delle domande? Prima che andiamo avanti, sì. Allora io, diciamo, riguardando tutti i scenari, ascoltando l'insegnamento di Geshe Trampa, praticamente lui ha detto non c'è possibilità di scelta, cioè nella rinascita, nelle rinascite, non puoi decidere di non Per nascere, gli esseri per ordinari, forza rinasci. sì. Allora, l'anello, praticamente questa ruota che gira in continuazione, no? Perché quanto ho visto qui nel Sangha Rinchen, cioè proprio la presenta come una ruota che gira in continuazione. Cos'è la causa che fa cessare? Lo vediamo dopo, ok? Questo alla fine di questa sezione Perché avrai nella la Lashana, risposta. se non sbaglio, loro dicono appunto che in questa vita si possono fermarla, però diciamo, avendo nome e forma, i cinque aggregati, possono, diciamo, non rinascere, però devono continuare questa vita, la devono finire, la devono terminare. Non capisco bene la tua domanda, cioè nel senso che Allora c'è praticamente loro due. la Posso. fermano la ruota. Allora, dobbiamo fare la distinzione tra il prendere rinascita tra il potere delle azioni, ok? okay, dell'afflizione, il prendere rinascita, ok, è il caso di un'aria che non crea più cause per rinascita, ma che comunque prende rinascita dal potere dell'azione. Okay? Quindi abbiamo visto che quando uno realizza direttamente la vacuità, okay, a quel momento in poi non si compiono più azioni che hanno il potere di proiettare una rinascita all'interno di l'esistenza ciclica. È finito. Però non significa che la persona non prende più rinascita nell'esistenza ciclica. Allora abbiamo due condizioni, due casi qui. Abbiamo il caso del praticante del veicolo individuale e del praticante del Mahayana, perché comunque si prende rinascita, almeno che seguiamo l'interpretazione delle scuole inferiori vaibhashika e sottantrica di ciò che è il nirvana, e quindi alla fine, cioè il nirvana per loro è l'estinzione completa dei fenomeni composti. Quindi una volta che la persona ha completamente, dopo un percorso, completamente purificata l'ignoranza della sua continua, del suo contenuto mentale, quindi non soltanto è diventata un'aria, ha realizzato la vacuità direttamente, ma si è familiarizzato per un po' di tempo, per molto tempo, con questa comprensione, con questa saggezza, e ha eliminato tutti 81 livelli di concezione di vera esistenza della sua continuità. A quel momento, quando la persona attualizza questo, diventa quello che è chiamato un arhat, un distruttore del nemico, e attualizza il nirvana. Per le scuole inferiori, questo nirvana si chiama un nirvana con rimanenza o residui, perché c'è ancora questo corpo e questa mente che sono state proiettate da azioni passate, quindi c'è il residui della sofferenza. Loro dicono che quando questa persona muore ottiene il nirvana senza residui, e quindi è come il soffiare una candela, cioè non c'è più il motore per aggregare di nuovo dei fenomeni contaminati o dei fenomeni composti, perché c'è stata estinzione dell'ignoranza, e quindi ciò che rimane è solo questa sfera della pacificazione completa, cioè estinzione dei fenomeni composti che sono la mente e il corpo. Questa è la loro interpretazione. Quindi più o meno Sua Santità la chiama questo il suicidio cosmico, okay? E non è l'interpretazione finale, okay? Non è l'interpretazione finale. Le altre scuole, quindi metà del Chitamatra, i Madhyamika Svatantrika e i Madhyamika Prasangika, spiegano il nirvana con residui e senza residui in un modo diverso. Quindi, allora, è chiaro che quando questa persona elimina gli 81 livelli della concezione di vera esistenza, ottiene il nirvana, ok? C'è nirvana. Però, quando muore, non c'è estinzione della continuità. Questa persona prende rinascita, perché comunque la mente è impossibile di fermare la continuità mentale. Okay? La continuità mentale, da tempi senza inizio, è scorre, nel senso che se c'è un oggetto, automaticamente c'è una mente. Okay? Quindi, se c'è una mente, c'è un oggetto. Quindi la mente produce la sua continuità, è un costituente che produce la sua continuità. Allora, a quel momento, visto che la mente è completamente liberata, purificata dalla concezione di vera esistenza, che non ci sono più afflizione presente, quindi afflizioni che possono motivare dell'azione contaminata per produrre, per proiettare cinque aggregati contaminati, a quel momento le azioni proiettano cinque aggregati puri, non più contaminati, ma puri. E la persona prende rinascita nelle terre pure, okay? Con corpo sottile, eccetera, che non è più nell'entità della sofferenza. E quindi questo è il nirvana per le scuole superiori. Okay. Quindi questo praticante Nayana, finché realizza direttamente la vacuità, è vincolato dal karma dell'afflizione e continua anche sul sentiero dell'accumulazione, il sentiero della preparazione, a creare le cause della sofferenza. Quando realizza direttamente la vacuità sul sentiero della visione, allora non compie più azione contaminati, perché queste apparenze non hanno più potere per motivare le afflizioni e quindi le azioni, perché sa che è falso l'ha realizzato. Allora, però, non significa che non prende più rinascita nell'esistenza ciclica. Deve ancora prendere rinascita nell'esistenza ciclica perché non ha eliminato gli 81 livelli della concezione di vera esistenza, ma ha eliminato soltanto un livello, perché è la percezione iniziale della vacuità, quindi la percezione iniziale elimina un livello, la seconda un'altra, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi prende rinascita nel samsara, nell'esistenza ciclica, dal potere delle azioni passate, ma non crea più delle nuove, finché ottiene lo stato di distruttore del nemico. A quel momento è finito. Per lui la presa nella rinascita all'interno dell'esistenza ciclica. Questo è il distruttore del. Questo è il praticante Hinayana. Il praticante Mahayana, allora, anche se non è libero dell'esistenza ciclica, ok? Non prende rinascita dal potere del karma dell'afflizione, prende rinascita dal potere delle preghiere della grande compassione. Quindi per lui è diverso. Questo fino al settimo terreno. Okay? Perché è sul settimo terreno che viene eliminato l'81esimo livello della concezione di vera esistenza. E dopo abbiamo i tre terreni puri, l'ottavo, il nono, il dieci, dove si elimina qualcos'altro. Nelle terre Va pure. bene? Ho risposto? Mi è venuta una cosa. Si parla di non ritornati ad un certo punto intrinsecamente. Com'è che si collocano questi invece? Ci arrivo. Ecco, ecco lì. Ok. Allora, l'Hinayana presenta quattro risultati, quattro tipi di risultati, o otto tipi di risultati, che sono tutti degli Arya, quindi degli individui che hanno realizzato la vacuità. Quindi il primo risultato è quello dell'entrata nella corrente, che corrisponde a qualcuno che ha realizzato inizialmente la vacuità direttamente. Poi abbiamo quello che ottiene il risultato del ritorno unico. Cosa significa ritorno unico? Significa che questa persona ha eliminato certi livelli di afflizione in relazione al rama del desiderio. Sono nove livelli di afflizione e di ignoranza rispetto al rama del desiderio, ma non ha eliminato il numero 9, il no, nono livello. Quindi deve ancora prendere rinascita una volta nel rama del desiderio. Questo è il ritorno unico. Quindi ancora una volta nel rama del desiderio. Dopo abbiamo il non ritornante, che ha eliminato i nove livelli di afflizione rispetto al rame del desiderio. Quindi lui non ritorna nel rame del desiderio, va nel rame della forma e del senza forma per continuare il suo sentiero. E poi abbiamo il distruttore del nemico. Questi sono i quattro risultati. Sì, ne abbiamo otto, sì, contiamo l'approcciante e il dimorante. Abbiamo un approcciante nell'entrata della corrente, un dimorante nell'entrata della corrente, un approcciante al ritorno unico, un dimorante al ritorno unico. Questi sono i quattro tipi di aria Hinayana. Ci siamo? Adesso, rispetto ai 12 anelli, ci sono le cose che volete chiarire? No, ok, allora andiamo avanti. Quindi abbiamo visto la classificazione abbreviata, ok? Abbiamo una classificazione abbreviata in quattro fattori. Abbiamo i fattori proiettanti, i fattori proiettati, fattori attualizzanti e fattori attualizzati. Poi abbiamo visto che abbiamo anche una classificazione in tre, perché abbiamo due azione, tre afflizione e sette basi di sofferenza, se mi ricordo bene. Sì, tre afflizione, due azione. E tutto il resto è verità della sofferenza. Abbiamo visto il perché ci sono due cicli di causalità. Se guardate la vostra tabella, vedete due cicli di causalità. Qui soltanto, questo è soltanto per illustrare il fatto che la sofferenza viene prodotta da due cicli di cause. Okay? Le verità della sofferenza è prodotta da due cicli di cause. E poi abbiamo visto il significato di proiettato e proiettato. Proiettante e di attualizzante, di attualizzato, e adesso siamo a vedere in quante vite vengono attualizzati questi 12 fattori. Okay? Allora, se guardate la tabella, più o meno è già indicato. Adesso io ho bisogno della versione inglese. Se guardate la colonna di destra, avete un numero 3 e un numero 2, e quindi questo illustra. il numero di vite sulla quale necessarie per attualizzare questi 12, okay? Quindi al minimo ne abbiamo due, okay? Al minimo ne abbiamo due perché i fattori attualizzanti, okay, che sono la brama, l'afferrarsi e l'esistenza, okay, e i fattori attualizzati, che sono nascita, invecchiamento e morte. Questo, come l'abbiamo detto, no? L'abbiamo sottolineato, occorrono senza intervallo. Senza intervallo. Invece, okay? Invece i fattori proiettanti e i fattori proiettati, questo un intervallo può occorrere. Infatti è più in generale, un intervallo occorre. Il caso è il più generale che ci sia intervallo. Quindi facciamo un esempio. Allora, ok, quindi facciamola così. Si prendiamo il come vengono attualizzati in questa vita, in due vite. Allora, noi nel presente abbiamo avuto, siamo nella situazione di nome, ok? Nome, forma, le sei sfere, il contatto, sensazione. Questa è la nostra situazione attuale. Giusto? E quindi abbiamo avuto già la nascita e siamo nel periodo tra invecchiamento e morte, ok? Quindi siamo effetti attualizzanti, effetti proiettati, quindi siamo in questa situazione. Ok? Mettiamo che no, se lo spiego così no, non va bene. Mettiamola così, facciamo così. In una vita passata c'è stato l'ignoranza, le formazioni karmiche e la coscienza al momento della causa, ok? In una vita passata. E alla fine di questa vita passata c'è stato la brama, l'afferrarsi e l'esistenza, ok? E in questa vita abbiamo nome e forma. Le sei sorgenti, il contatto, la sensazione dovuto alla nascita, invecchiamento e morte. Quindi in questo contesto abbiamo i 12 anelli su due vite. Avete visto la cosa? Tre vite, come facciamo su tre vite? Quindi in questa vita si accumulano il karma, no? Che dovrebbe risultare come un'esperienza di Deva, per esempio, e quindi le esperienze successive, le esperienze concomitanti con quel tipo di vita. Quindi a quel momento, quando si fa l'azione, occorre i due anelli e mezzo, che sono l'ignoranza, le formazioni karmiche e la coscienza al momento della causa, e anche più avanti, okay, la brama, l'afferrarsi e l'esistenza. E questi sono completati in questa vita. Possiamo metterla così, e nella vita futura ci sarà, possiamo vederla anche così, nome, forma, contatto, sensazione, nascita, invecchiamento e morte. Questo dipende come guardiamo la vita A, ok? La vita presente, se la guardiamo in termini di effetti proiettati o di causa proiettanti. La storia è la stessa. Invece, per tre, ok? Per tre possiamo vedere la cosa così. Allora, in questa vita vengono compiute, motivate dall'ignoranza, si compiono le formazioni karmiche e la coscienza. Ok? Diciamo in una vita passata. In una vita passata abbiamo compiuto, motivati dall'ignoranza, delle azioni e quindi abbiamo depositato delle impronte sulla coscienza. In vite passate, non si sa quando, non ha importanza. In questa vita presente, okay, siamo nella situazione di nome e forma, sei sorgente, contatto, sensazione, nascita e invecchiamento e morte, giusto? Non funziona così. Sì. ve lo rifaccio. In una vita passata c'è stata ignoranza, formazione karmiche e coscienza. Ok? Alla fine di questa vita, alla fine di questa vita, abbiamo la Brahma, l'afferrarsi e il divenire, ok? Che vanno a attualizzare quindi queste potenzialità karmiche depositate in una vita passata, non in questa, e quindi nella vita futura avremo nome, forma, sesso, oggetto, contatto, sensazione, nascita, invecchiamento e morte. Scusate, ho avuto un momento di difficoltà, ok? Ce la rifacciamo? Tre vite? Ce la rifacciamo? Ok, siamo tranquilli in questa vita. Però in una vita passata, la vita passata, motivati dall'ignoranza, abbiamo compiuto dell'azione e quindi lasciato delle impronte sulla coscienza. Quindi in una vita passata abbiamo 1, 2 e 3 e mezzo. Ok? Quindi due anelli e mezzo. Okay? Alla fine di questa vita, al momento della morte, poco prima, andremo, dovuto all'ignoranza, eccetera, ci sarà... Quando sentiamo il processo della morte c'è l'afferrarsi, no? La Brahma è l'afferrarsi ai 5 aggregati, ok? Quindi Brahma afferrarsi e quindi l'attivazione di una potenzialità karmica compiuta in una vita passata, non più in questa vita, ma in una vita passata. Quindi in questa vita abbiamo 8, 9 e 10. E quindi il risultato immediatamente, quindi nella vita successiva, abbiamo nascita, invecchiamento e morte, ok? Nome, forma, 6 sorgenti, contatti, sensazione. Ok? Ce l'abbiamo fatta. Una cosa, forse non è collegato, però mi ricordo che mi ero creato questi disegni mentali dove per collegare tre vite la differenza stava che c'era il maestro che arrivato a un certo punto ti indirizzava e quindi non faceva maturare un certo tipo di karma e ti ritornava nella vita successiva. No, non ho capito. Non mi ricordo dove... Ma questo quello che hai detto non c'entra assolutamente con questo processo. No, questo processo è comunque anche in questo caso, anche nel tuo contesto, ci vogliono 2 o 3 vite. E questo è il fatto che dovuto all'aiuto del maestro ti fa maturare un karma invece di un altro... È comunque un processo dei 12 anelli. Sì, sì, che è un processo dei 12 anelli, ok. Però magari l'ho interpretato male. Ero convinto che le tre vite erano collegate all'entrata in scena del maestro. No, no. L'entrata in scena del maestro non cambia niente sul fatto che ci vogliono 2 o 3 vite. Cioè, nel senso, cioè... ci sono 2 o 3, non cambia niente. Con l'intervenzione del maestro ci possono essere 2 o 3 vite, senza l'intervenzione del maestro ci possono essere 2 o 3 vite, non c'entra. Io non ho ben capito ora la differenza tra 2 o 3 vite, perché allora ci provo io. Vita passata, ignoranza, karma e coscienza simile alla causa. Coscienza al momento della causa. E questa okay. È una vita passata. Ok. E una vita passata, quindi questo è il primo karma. È la prima vita. Ok. La seconda vita è questa. Ok. Cosa ti manca nella vita passata? Ti mancano delle cose anche. Manca l'esistenza, l'afferrarsi la prima. Esatto, che vanno a attualizzare quel karma. E a quel momento, visto che non c'è interruzione tra 8, 9, 10, 11, 12, in questa vita sperimento il risultato dell'azione della vita immediatamente passata. E in quel momento hai 12 su 2 vite. Brahma, afferrarsi, esistenza sono 1 vita. Sono nel contesto delle 2 vite... Nel contesto dell'esperimentare i 12 su 2 vite, sono incluso nella stessa vita che 1, 2, 3. Nella stessa vita dove ho creato quel karma. Esatto. Altrimenti ci vogliono 3 vite. Perché hai una vita per l'azione, una vita per attivare la potenzialità è, un, è, un ter, è una terza vita per il proiettato. Okay? Però quindi nel contesto di tre vite abbiamo 1, 2, 3 e mezzo, ok? 8, 9, 10. Che può essere nella prima vita o in un'altra. Fammi finire. 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, che hanno ciascuno bisogno della loro esistenza propria per manifestarsi. Okay? Però sono inclusi, anche se su un tre vite, nello stesso ciclo di 12 anelli. Nello stesso ciclo, nel senso che questi 12 ti maturano su tre vite, ma sono inclusi, sono causati da una stessa azione, cioè da un stesso momento di ignoranza che ha creato una stessa azione. Quindi vengono attualizzati, tra virgolette, su tre vite, ma sono incluso nello stesso ciclo di sorgere dipendente. Queste tre vite possono essere due nel caso in cui uno, due, tre e mezzo, sette, otto, nove, 10 sono nella stessa vita. Ok, 8, 9, 10 nella stessa vita, sì. Ok, è chiaro, Paolo? Quindi quella del maestro è un'altra faccenda. Il maestro allora, c'è il momento della morte, nel senso che è possibile che dovuta alle sue benedizioni tu ti ricordi invece di partire. Di attivare delle potenzialità negative dovute al fatto di generare una mente di angoscia, eccetera, o di ricordarti oggetti di attaccamento, allora, dovuto alle sue benedizioni, la tua mente ha un istante di ti ricordi, per esempio, i tre gioielli, o ti ricordi la sua presenza, la mente diventa una mente nell'entità della fede o virtuosa, e a quel momento va attivare a qualcos'altro, ma è tutto lì. E quello che si stava attivando rimane per la vita No, successiva. si stava attivando, si attiva, nel senso che questa cosa va fatto prima, cioè una volta che incomincia a generare brama e afferrarsi, sei cotto. Ok, allora forse questo pensiero del maestro era collegato con. Sì, ma tu non so che cosa leggi, No, forse era collegato con quando uno sperimenta un certo tipo di karma che sia proiettante o completante. E magari uno lo sperimenta proiettante e nella vita successiva sperimenta Questa è un'altra sempre cosa, nel senso che se completante. tu fai delle azioni non virtuose in questa vita o le hai compiuto in una vita passata, dovuto a pratiche di purificazione, okay, e anche alle benedizioni del maestro, okay, lui ti fa, ho dovuto in particolare le tue pratiche, perché non c'è niente che viene fatto, nel senso che la loro capacità di aiutarti dipende dallo sforzo che tu stai mettendo. Cioè, capito? Loro non sono onnipotente. Non esiste questo. Quindi sì, invece sì, qualcosa ti matura in questa vita come un'esperienza di danno minore, come insomma, un po' di malattia o mal di testa, invece di maturarti alla fine di questa vita la potenzialità di proiettarti in stati di sofferenza, questo è dovuto alla tua pratica. Ok? Ovviamente c'è anche l'aiuto dell'ama, però principalmente la tua pratica. Non pensare che cioè, sarai aiutato, sì, cioè, aiutati e il cielo ti aiuterà, si dice, no? Una cosa del genere, ma in francese dice così. Cioè, nel senso, se tu non fai niente, se tu non fai niente, i maestri non possono fare niente per te. L'unica cosa che fanno i maestri è insegnarti. Infatti, ecco perché se tu guardi, non ce l'abbiamo qui, la ruota di Senda Ciclica che illustra i 12 anelli, no? C'è il Buddha che punta la luna col dito. Cioè nel tutte le rappresentazioni, no? Nella foto, nell'alto a destra, c'è il Buddha che punta la luna. La luna significa la liberazione, e il Buddha punta la luna, significa che lui ti indica il metodo per uscire. Però dipende da te se tu vuoi uscire o no. Lui non ti può prendere e tirarti fuori, altrimenti non saremo qui. sarebbe stato già fatto. Quindi il beneficio che puoi ricevere dai Buddha o dal proprio maestro dipende da quanto ti impegni personalmente. La capacità di aiutarci dipende proprio dal lavoro che sta facendo il discepolo, dalla sua accumulazione di meriti, dalla sua purificazione, dalla saggezza, dalla comprensione che sta generando, eccetera. Okay? Quindi più tu sviluppi questi aspetti del sentiero, più la loro capacità di aiutarti aumenta. Sì, non si fa niente, non possono fare un granché per te. Ok, tutto questo era per capire se il maestro comprende che in questi 12 anelli la mia morte si attiva, prenderò rinascita Ma in un. questo dipende, cioè, non c'è la, come si dice, niente predeterminato, non c'è la fatalità, non esiste la fatalità, nel senso che tu puoi far maturare come ti muovi in questa vita, il futuro è multiplice, perché hai un sacco di potenzialità, tu pensi in una giornata i 12 anelli, quanto ne crei? Quanto lasci il numero 1, numero 2, numero 3 solo in una giornata? Centinaia, centinaia, più quelli che hai accumulati da tempi senza inizio, che non sono stati, come si dice, purificati o bloccati dai quattro poteri opponenti che possono maturare a qualsiasi momento di questa esistenza. Quindi ogni volta che ti trovi in una situazione, il futuro è multiplice, nel senso che se tu scegli di andare in questa direzione, allora ti maturano certe cose. Se scegli di andare in un'altra direzione, ti maturano altre cose. Però la scelta è tua. Non c'è il destino, non sono queste cose. Tutto nelle tue mani. Tutto nelle tue mani. A ogni istante. Okay? Visto che hai la preziosa rinascita umana, a ogni istante hai la possibilità di continuare a creare il ciclo, quindi sperimentare sofferenza, creare le cause della sofferenza, o creare le cause della felicità, della liberazione. Ogni istante hai questa possibilità perché a ogni istante sono le 18 qualità della preziosa rinascita umana. Ok. Per quelli che non hanno la presenza di nascita umana, non hanno molto scelta, nel senso che è più difficile di avere chiarezza su ciò che deve essere adottato e abbandonato. Quindi hai questa fortuna, tocca a te di utilizzarla. Però ti dico, cioè, il maestro da solo non è che fa molto, eh. Infatti si dice che l'attività principale, l'attività la più eccellente dei Buddha è quella della parola, perché ti insegnano come uscire di questo stato. Poi tocca a te di farlo. Infatti il Buddha diceva, no? Io non posso prendere la vostra sofferenza con le mie mani, non posso trasferire la mia realizzazione alla vostra mente, non posso pulire il karma con l'acqua. Cioè, io insegno il sentiero e a voi di percorrerlo. Percorrerlo. Ci siamo? Ok, quindi anche durante questa vita, i fattori risultanti, no? Che sono gli effetti, qui chiamati effetti proiettati, sono stati attualizzati da questo 8, 9, 10. Non c'è differenza tra gli effetti attualizzati e gli effetti proiettati, no? Gli effetti attualizzati è proprio il proiettato. Ok? Quindi non c'è un sé, non c'è un sé della persona, ci sono solo nome e forma, sei sorgente, contatto e sensazione, e la coscienza ha effetto, coscienza effetto, quindi abbiamo solo cinque aggregati, quindi non c'è un sé, non c'è un sé, cioè una persona che accumula karma e sperimenta i risultati. Ci sono solo dei fattori risultanti che sono dei semplici fenomeni. sorgono da fattori causali e questi fattori causali sono anche meri fenomeni. Se vogliamo cercare un sé, in queste cose non lo troviamo. Ci sono solo dei fattori causali e dei fattori proiettati. E tutto questo sono semplicemente dei fenomeni, non sono, questi fenomeni non sono prodotti nell'entità di un sé, permanente, indipendente, autosufficiente, intrinsecamente esistente, dipende dal livello di ignoranza che vogliamo andare a eliminare, ma non c'è un sé, ci sono solo dei fattori attualizzati, o i fattori proiettati. Quindi dovuto al non comprendere questo processo, no, di esistenza ciclica, l'essere è confuso, okay? E quindi postula un io, una persona, postula un sé, e desidera che questo sé sia felice, sia in contatto con la felicità e sia separato dalla sofferenza. E quindi per questo scopo la persona si implica in attività verbale, okay, e fisiche, e quindi si impegni in azioni virtuose e non virtuose per questo proposito, e in quel modo, cioè, come si dice, nutrisce il processo, dei 12 anelli, okay? Semplicemente perché non comprende che non c'è un io, che sono semplicemente dei meri fenomeni, okay, causati da altri meri fenomeni. Quindi abbiamo due fattori karmici, no? Che sono, cioè due azioni che sono le formazioni karmiche e l'esistenza, sorge dai tre fattori afflittivi, dai tre afflizioni, che sono l'ignoranza, la brama e l'afferrarsi. E da questi sette fattori di sofferenza sorgono, che sono la nascita, l'invecchiamento e la morte, okay? O mettiamola così, nome e forma, sorgenti, contatto, sensazione, nascita, invecchiamento e morte. Quindi e da questi sette nuove afflizioni sorgono, automaticamente, da questi sette nuove afflizioni sorgono, e in quel modo uno passa cioè non passa al di là dell'esistenza ciclica, okay? E quindi la ruota dei 12 anelli circola o gira senza interruzione. Infatti, come dice Nagarjuna, da 3 sorgono 2, okay? Da 2 sorgono 7 e ancora da 7 sorgono 3. La ruota dell'esistenza gira in un modo incessante. Quindi cosa significa, Paolo? Domanda. Cosa significa da 3 sorgono 2? Da tre sarebbero l'ignoranza versione Siamo nel contesto dei 12 anelli. Da 3 sorgono 2. dall'ignoranza, dalle formazioni karmiche, Da 3 sorgono 2. da attaccamento Brahma. Allora, 3 sorgono 2 significa da 3 afflizione, che sono origine della sofferenza. Ignoranza, attaccamento Ignoranza, brama Brahma e e afferrarsi. afferrarsi sorgono 2. Quali sono queste due che sorgono? Esistenza E formazione karmiche, le due azioni, da queste tre afflizioni, due tipi di azione che sono formazione karmiche e esistenza. Da queste due sorgono sette. Cosa sono questi sette? coscienza, No, sensazione. non è coscienza, perché coscienza l'abbiamo messo nel. Sì, vabbè, sì, dipende, sì, Coscienza ovviamente, effetto. ok. Coscienza effetto e senza e nome forma, senza contatto, sensazione. Sorgenti, contatti, sensazione, nascita, Nascita, invecchiamento e invecchiamento. morto. E da questi sette sorgono tre. Quali sono i tre che sorgono da questi sette? Di nuovo ignoranza, Di nuovo le tre afflizioni. sensazione. Okay. Quindi questa strofa è molto importante. Se comprendete questo, questo va contemplato. Questo, in questa strofa è incredibile, no? Avete il riassunto completo del modo di circolare l'isociclica, quindi è molto profondo. Più va contemplata questa cosa, no. Quindi questa contemplazione, no, dei 12 anelli viene presentato come il metodo migliore per generare il disincanto rispetto all'isociclica, okay? Il metodo migliore. Per esempio, perché adesso siamo pochi impegnati in tutte queste cose, no? Siamo pochi impegnati nello studio, nella contemplazione, in tutte queste cose. Semplicemente perché il nostro disincanto per l'isociclica è debole o anche non esistente. Quindi, dovuto ad avere poca disincanto per l'isociclica, cerchiamo sempre, dovuto al non comprendere quindi la natura dell'isenta ciclica, cerchiamo sempre di fissare le condizioni esterne. Okay? Cerchiamo di fissare le condizioni esterne, sperando che le cose andranno bene. Quindi cosa significa? Significa che andiamo a ricercare la felicità fuori. Okay? Andiamo a ricercare la felicità dove non c'è, perché l'abbiamo contemplata insieme, la felicità fuori. Al massimo è la sofferenza del cambiamento, quindi sofferenza del cambiamento sappiamo è un sollievo momentaneo della sofferenza. Quindi questa attitudine che abbiamo di cercare sempre di fissare le condizioni esterne, no? È dovuto al fatto che non abbiamo una comprensione di ciò che è veramente la natura esacciclica, perché la natura esacciclica è sofferenza, qualsiasi cosa tu fai non può far che sia un'esperienza di felicità durabile, durabile, è impossibile. Quindi, dovuto al pensare che se abbiamo le condizioni giuste, il compagno giusto, il lavoro giusto, non so, il vivere al posto giusto, allora ce la possiamo cavare, finché c'è questa comprensione completamente erronea, non c'è l'energia necessaria per generare questa comprensione. Non ci sarà mai l'energia necessaria per realizzare le quattro nobili verità. Okay? È impossibile. Semplicemente perché non abbiamo un disincanto rispetto all'isenta ciclica. Quindi dobbiamo contemplare il nostro karma proiettante. No? Abbiamo visto noi in una giornata del karma proiettante, quindi gli anelli 1, 2, 3, ne creiamo migliaia, centinaia, anche migliaia certe volte, no? Dipende di come ci muoviamo in una giornata. E quindi questi karma sono virtuosi, e visto che non facciamo molto attenti, la maggior parte sono anche non virtuosi. Quindi pensiamo in una giornata, quindi pensi in una settimana, in un mese, in un anno, in una vita, pensi da tempi senza inizio, cosa ancora ti deve maturare, che tipo di esperienza ti aspettano alla fine di questa vita. Quindi sì, perché tutto questo karma. Ovviamente c'è quello che ha già maturato, ma questo non prendiamo in considerazione. Prendiamo in considerazione quello che non ha maturato e che non è stato, in un certo modo, depauperato dalla sua potenzialità di maturare dovuta all'utilizzo dei quattro poteri opponenti. Quindi, pensaci bene. Quindi questo, ovviamente, questa contemplazione deve essere collegato alla contemplazione sulla legge di causa-effetto che abbiamo avuto, dove andiamo a analizzare ogni azione e vediamo i loro quattro risultati rispettivi, perché altrimenti non c'è base per riflettere. Quindi quando la brama e l'afferrarsi in questa vita le nutrono, uno è proiettata senza scelta nell'isinda ciclica e sperimenta felicità e sofferenza senza controllo. Senza controllo, noi lo facciamo in tutta la nostra vita, non cerchiamo di produrre le cause della felicità, no? Cerchiamo di evitare la sofferenza, però però abbiamo l'illusione di controllo rispetto a questa esperienza. O pensiamo che facendo certe cose avremo un certo tipo di risultato, ma questi certi tipi di risultati sono determinati direttamente dalle potenzialità che abbiamo stabilito, nel senso che se abbiamo creato il karma c'è l'esperienza, se non abbiamo creato il karma puoi cercare di produrre le cose ancora. Okay? Mettendo delle cose, delle situazioni insieme, la cosa non ti matura. No? Quindi noi sperimentiamo sofferenza e felicità senza scelta. Senza scelta. Okay? Bisogna riflettere in quel modo. Quindi c'è questo Geshe a Kadampa, no? Punchungwa, lui diceva, abbiamo la progressione. Lui diceva che la progressione tramite la cessazione dei 12 fattori, dei reami inferiori, questo è l'insegnamento di essere del scopo iniziale. Ma diceva che la progressione e la cessazione, scusate, la progressione e la cessazione dei 12 fattori, delle rinascite sfortunate, è lo scopo iniziale. La progressione e la cessazione dei 12 fattori per delle rinascite superiore, questo è l'insegnamento delle persone del scopo intermedio. Poi c'è l'essere di grande capacità, quindi il terzo tipo di praticanti, dice che l'accesso, la, la, sì, la, il riflettere, mettiamola così, riflettere sulla propria situazione in accordo a queste due pratiche e sviluppare su questa base, su questa comprensione, no? L'amore e la compassione per tutte le altre madri che circolano all'esistenza all'interno dell'esistenza ciclica tramite i 12 anelli, ok? E in più l'addestrarsi nel desiderio di ottenere lo stato di Buddha per scoprire, per guadagnare la comprensione di questo sentiero che conduce alla fine, questo è l'insegnamento degli esseri di terzo livello di motivazione. Quindi tutto gira intorno ai 12 anelli. I tre scopi li possiamo includere anche in nodi dei 12 anelli. Dipende come vengono contemplati. Quindi conclusione o che tipo di comprensione dobbiamo generare dalla contemplazione e la riflessione su questi 12, ok? Dobbiamo comprendere bene come l'esistenza ciclica, e in questo contesto che cos'è l'esistenza ciclica? Sono i 5 aggregati di appropriazione contaminati. Questo è l'esistenza ciclica, ok? Perché noi circoliamo dentro. Quindi l'esistenza ciclica la possiamo presentare anche così, come essendo i 5 aggregati contaminati di appropriazione, sono formati o creati dal potere delle origine, che sono il karma e l'afflizione, e in particolare come la ruota dell'esistenza gira nel contesto dei 12 anelli. Questa è la comprensione che si dovrebbe generare tramite la contemplazione dei 12. Poi nei trattati dicono che questo insegnamento, il diventare, il sviluppare familiarità con questi 12, okay, distrugge la confusione rispetto alla radice del problema. Quindi chiedevi, ma che cos'è la radice del problema? La radice del problema è l'ignoranza, e questa è la radice del problema. La visione della ruota e la fermi solo perché continui a fare karma perché te credi di esistere, per Esatto, cui di la esistere felicità veramente, attento, attento, esistere veramente. cioè, qui bisogna Sì, esistere veramente. ovviamente, sì, vabbè, intrinsecamente Ok, esistere intrinsecamente. veramente, a un punto di devi soddisfare tutto quello che ti permette di continuare a esistere veramente. E al momento che crei semi, karma, continuazione e continui poi a maturare, se invece la fermi, tac, Si con la elimina, visione, esatto. Si elimina l'ignoranza, si tutto il resto elimina si tutto. ferma, ok? Quindi questa contemplazione o questa saggezza che viene generata sradica tutte le visioni errate rispetto alle azioni alle azioni di composizione interne e esterne che potrebbero sorgere senza cause. Per esempio, uno potrebbe dire, ah, ma le esperienze di questa vita, di felicità, di sofferenza, sorgono senza cause. Ok? O tutto sorge da tutto. O tutto cioè, è casuale. No, no, tutta una causa ben particolare. Okay? Tutti i fenomeni composti sorgono da cause particolari. Okay? O potrebbe anche eliminare l'ignoranza che dice che c'è una causa unica. Nel senso, un creatore. Che è responsabile delle mie esperienze di felicità e di sofferenza. Okay? Quindi elimina l'ignoranza rispetto credere in una casa unica, in un'assenza di causalità o al fatto che tutto deriva da tutto. Cioè, questo è quando le cause sono incompatibili con il risultato, no? Cioè, cose incompatibili con il risultato. E quindi il beneficio anche, la Matsonkapa dice che incrementa, ovviamente incrementa la saggezza, c'è cioè un grande incremento della saggezza, e motiva uno verso il sentiero della liberazione. E questo, il contempla questo, ti motiva a ottenere la liberazione. E tramite la comprensione delle caratteristiche dell'isita ciclica, c'è anche un intenso disincanto che viene generato. Okay? Quindi sì, ci vogliamo interessare brevemente al modo di riflettere su i 12 anelli, dobbiamo distinguere quattro modi di contemplare i 12 anelli. Possiamo contemplare tramite quattro modi. Due che corrispondono all'atto afflitto e due dal lato purificato. Quindi avremo una contemplazione sul senso forward, diretto del completamente afflitto e indiretto rispetto al completamente afflitto. Poi avremo una contemplazione diretta, ok? Nel senso diretto, non so se forward, cioè diretto rispetto al completamente puro e indiretto, rovescio, invece di indiretto è rovescio. Dal lato del completamente puro, ok? Avanti e indietro. Avanti e indietro, ok? Avanti e indietro, sì, forward, backward, ok? Quindi sì, guardiamo brevemente come si fa la contemplazione rispetto al senso in avanti del completamente afflitto. Uno prende separatamente ogni anelli, no? E considera come l'anello precedente è la causa dell'anello successivo. Quindi, questo ci rivela quindi l'ordine sequenziale del lato afflitto, okay? O in breve come le vere sofferenze sorgono dalle vere origini ancora, ancora e ancora. Quindi uno parte dell'ignoranza, quindi rifletta su che cos'è l'ignoranza. E dice, dovuta all'ignoranza, automaticamente ci sono le formazioni karmiche. E uno riflette su ciò che sono le formazioni karmiche. Dovuta alle formazioni karmiche abbiamo la coscienza, ok? Qui si riflette. Dovuta alla coscienza c'è il nome e la forma. Dovuta al nome e la forma abbiamo le sei sorgente. Dovuta alle sei sorgente inevitabilmente c'è il contatto. Se c'è il contatto inevitabilmente c'è la sensazione. E quindi automaticamente abbiamo la brama, l'afferrarsi. E quindi automaticamente avremo l'esistenza. Se c'è esistenza, c'è nascita. Se c'è nascita, c'è vecchiaia e morte con la massa di sofferenza. Okay? Quindi in quel modo si osserva come un anello causa l'anello successivo. Okay? E poi c'è il modo rovescio. Modo rovescio, uno parte della sofferenza di questa vita, quindi contempla la sofferenza di questa vita. Quindi qui. Anche qui la comprensione deve essere nutrita dalla contemplazione delle quattro nobili verità, quindi i tre sofferenze, i sei tipi di sofferenze, otto tipi di sofferenza, quindi parte da questa comprensione, okay, che è il dodicesimo, vecchiaia e morte, è questo. E guarda come vecchiaia e morte sorge dovuto alla nascita, come la nascita sorge dovuto all'esistenza, quindi l'attivazione. L'attivazione sorge dovuta all'afferrarsi, l'afferrarsi è un'intensificazione della brama, la brama sorge dovuta alla sensazione, la sensazione sorge dovuta al contatto, il contatto sorge dovuto alle sei poteri sensoriali, le sei poteri sensoriali sorgono perché sono cinque aggregati sorgono perché c'è la coscienza effetto, magari la coscienza effetto perché ci sono le formazioni karmiche e le formazioni karmiche perché c'è l'ignoranza. Okay? In questo modo abbiamo fatto il lato di produzione, il lato sia sequenziale e rovescio del produrre, d'entrare nel contaminato. Okay? Adesso si fa la stessa cosa, ma del lato, quindi abbiamo fatto del lato delle vere sofferenze, delle vere origini, adesso le facciamo del lato delle vere cessazioni e dei veri sentieri, okay? Quindi l'incontaminato. E qui si parte e si vede come la cessazione di ogni anelli causa la cessazione dell'anello. Aspettate qui. Come la cessazione di un anello causa la cessazione dell'anello successivo. Ok? Sì, come la cessazione di uno è il metodo, è così che va, come la cessazione di un anello è il metodo per la cessazione dell'anello successivo. Quindi, dovuto alla cessazione dell'ignoranza, c'è la cessazione delle formazioni karmiche, quindi non c'è più il karma. Se non c'è più karma, non c'è più la coscienza. Okay? La coscienza, in cui stiamo parlando della coscienza al momento della causa. Okay, quindi contaminata da un'impronte karmiche. Se non c'è più la coscienza, al momento della casa non c'è più il nome e la forma. Se non c'è più il nome e la forma, non c'è più il sé sorgente, non c'è più il sé sorgente, non c'è più il contatto, non c'è più il contatto, non c'è più la sensazione. Se non c'è più la sensazione, non c'è più la brama. Se non c'è più la brama, non abbiamo più l'afferrarsi. Se non abbiamo più l'afferrarsi, non c'è più l'esistenza. Se non c'è più l'esistenza, non c'è la nascita e quindi non c'è l'invecchiaia e la morte. Okay? E poi abbiamo anche il lato opposto. Quindi questo è l'ordine seriale d'entrata nel completamente puro. Adesso abbiamo l'ordine rovescio dell'entrata nel completamente purificato. Quindi qui, anche qui si parte della sofferenza di questa vita e si vede come la cessazione della sofferenza di questa vita dipende dalla cessazione dell'anello precedente. Quindi la cessazione della vecchiaia e la morte dipende dalla cessazione della nascita. La cessazione della nascita dipende dalla cessazione del divenire, dell'esistenza. Questa dipende dalla cessazione dell'afferrarsi. La cessazione dell'afferrarsi dipende dalla cessazione della brama. La cessazione della brama o l'estinzione della brama dipende dalla cessazione delle sensazioni, che dipende dalla cessazione del contatto, che dipende dalla cessazione dei sei sorgenti, che dipendono dalla cessazione del nome e forma, che dipende dalla cessazione della coscienza. La cessazione della coscienza dipende dalla cessazione delle formazioni karmiche, che dipende direttamente dalla cessazione dell'ignoranza. E quindi qui, in quel modo, contemplando in quel modo, uno realizza due cose. Realizza che per ottenere la liberazione di questa ciclica bisogna eliminare l'ignoranza. Ok? Quindi riflettere sulla vacuità, cercare di aumentare la propria comprensione della realtà ultima dei fenomeni. Questa è una cosa molto importante e dobbiamo il più possibile leggere trattati, ascoltare insegnamenti, discutere del significato dell'eternità. Anche se non comprendiamo niente, non ha importanza. La comprensione non è la vostra responsabilità. La vostra responsabilità è il studiare, la comprensione sorge con il tempo. Ok? Quindi è la cosa la più significativa che possiamo fare in questa vita, è cercare di comprendere il significato della realtà. E ciò che non comprendiamo in questa vita maturerà necessariamente, perché abbiamo i 12 anelli, nella vita successiva. Ok? Quindi le impronte che depositiamo adesso sono anche inclusi in questi 12 anelli. Però se siamo motivati bene, non danno risultato a sette basi di sofferenza. Non danno come risultato sette basi di sofferenza. Ok? E che questo è nei 12 anelli. Quindi questa è la nostra responsabilità. Non c'è niente di più significativo che di riflettere sull'eternità. E l'altra cosa, sì, l'altra cosa che si comprende, mi è fuggita. Sì, il beneficio, l'altro beneficio è sì, il disincanto completo e totale per il modo, cioè, ci comprendiamo come questo, come siamo vincolati, no? Incatenati a questo ciclo, L'esistenza, no? praticamente, si L'esistenza. risponde, Sì. il divenire. Ah sì, ecco, è l'altra cosa, che comprendiamo alla luce di questo è che non c'è un io autonomo, non c'è un io vero e proprio. Non c'è un io che possiamo rintracciare tramite l'analisi, non c'è un io che possiamo puntare all'interno dei cinque aggregati e dire questo è l'io, perché sono questo che cos'è? Cos'è sono? Sono semplicemente dei fenomeni, questi fenomeni sono nome e forma, sorgenti, contatto e sensazione, okay? Che sono prodotti da altri fenomeni. E su questo nome, forma, contatto, sensazione e sorgenti, questa è la base di imputazione dell'io. Perché abbiamo questi vari anelli, dovuto al fatto di avere questi vari anelli, c'è un io. Ma l'io esiste in dipendenza su questi sei, questi 1, 2, 3, 4, 4 anelli e mezzo. In dipendenza di questi 4 anelli e mezzo, c'è un io che va imputato su i cinque aggregati. Imputato in dipendenza su i cinque aggregati. Separato, cioè, l'io non è nessuno dei cinque aggregati, non è neanche cinque aggregati nel loro insieme, è separato di questi cinque aggregati, un io non c'è. Quindi l'io è un sorgere dipendente. Perché c'è un corpo e una mente, c'è la nozione di un io che sorge. Ma quest'io non è un'esistenza vera e propria indipendente, non esiste dovuto alla propria forza, non ha la capacità di autostabilirsi, esiste semplicemente in dipendenza di questi eventi fisici e mentale. Separato da questo, all'interno di questo non c'è un io, separato non c'è un io. Ci sono gli eventi mentali e fisici, c'è l'io. Se non ci sono, non c'è l'io. Quindi bisogna cercare di capire sta cosa. Domande? Durante gli insegnamenti spesso ci viene detto va bene di meditare sulla vacuità o di almeno riflettere, però ci viene spesso detto anche quando vedi sorgere una mente afflitta, contempla ma non ti afferrare, cioè come se fosse possibile interrompere i 12 anelli anche a livello dell'afferrarsi, della brama o dell'afferrarsi. Allora, questo è nel caso, sì, abbiamo visto, no, che per guadagnare un po' di autonomia rispetto alle afflizioni mentali, abbiamo visto che per bloccare l'azione, okay, per bloccare l'azione bisogna bloccare l'afflizione, e per bloccare l'afflizione bisogna agire sull'attività mentale inappropriata. Quindi, una possibilità anche è invece di seguire l'afflizione, perché una volta che ti identifichi con l'afflizione, l'afflizione ti porta e agisci. Quindi una cosa che si può fare è di osservare le afflizioni che sorgono della mente, riconoscerle, e da quel momento in poi, una volta che viene riconosciuta, l'afflizione cessa, si dissolve, cioè sorge dallo spazio della mente e ritorna a dissolversi nello spazio della mente. Cioè l'afflizione ha il potere se tu gli dai del potere, nel senso se tu ti identifichi e segui, allora ti porta via. Ma se hai sufficientemente distacco rispetto alla propria attività mentale, ok? Distacco, e sei in grado di vedere, di osservarle, vedere che si alzano. Le riconosci l'etichetta attaccamento, orgoglio. versione, vanno a dissolversi, no, perché non ci butti più la legna, non butti più la legna nel fuoco. Quindi queste cose vanno fatte all'inizio in sedute, ok? Quindi bisogna fare sedute e osservare la mente. Questa è anche una meditazione, è molto importante perché in quel modo entriamo in contatto col disastro, altrimenti non abbiamo troppo. Non siamo troppi consapevoli del disastro che è la nostra mente. E quindi si fanno queste sessioni e si vede che come le afflizioni sorgono uno dopo l'altro, o che i pensieri che sorgono sono in generale di due tipi, o pensieri motivati da oggetti di attaccamento, o pensieri motivati da oggetti di avversione. E in quel modo si realizza che finché la mente non verrà pacificata, la felicità è impossibile. Impossibile. Antidoto È un, come si chiama? Un cerotto. Cerotto. Non è un antidoto. L'antidoto è la mente che ha resa direttamente la vacuità. Questi come non è neanche un antidoto, perché l'antidoto all'attaccamento è il contemplare gli attributi sgradevoli degli oggetti di attaccamento. L'antidoto all'avversione è il contemplare l'amore, la compassione, l'equanimità, eccetera, la mente di Bodhicitta. Quindi questo sì, in un certo modo pacifica la mente, ma non è veramente un antidoto. Pacifica. Come dire, cioè, negli insegnamenti rimane un pezzo di legno, Cosciente. Pezzo di cosciente. legno. Infatti Shantideva dice, no? Sì, Nel infatti, Bodhisattva Shantideva. Avatara dice, quando l'attaccamento sorge, rimani come un pezzo di legno o come un albero che è stato tagliato. Come si chiama il pezzo che rimane? No, Cerco? il coso che rimane, no? Con le radici. No, cerco quello che si ha. Comunque c'è una parola particolare che in italiano non conosco, è un souche in francese, si chiama un souche, di rimanere in quel modo, no? Di fronte alle afflizioni. Cioè, questo significa averle riconosciuto tramite la consapevolezza delle proprie attività mentali e non corre dietro, non risponde alla reazione. Quindi è necessario mettere un po' di distacco. La prima cosa è necessario avere un po' di distacco rispetto a ciò che ci circonda. Okay? Se non abbiamo distacco emotivo, emozionale, come lo volete chiamare, rispetto a ciò che accade nell'ambito del lavoro, nell'ambito della famiglia, nell'ambito delle relazioni tra amici, eccetera, allora è impossibile fare questo lavoro. Quindi prima cerchiamo di, ok, è un po' di distacco emotivo, okay, rispetto a tutte queste cose, okay? E in quel modo piano piano guadagniamo un spazio di libertà, e in questo spazio di libertà è possibile di lavorare, okay, sviluppare più introspezione e quindi riconoscere, rivedere queste attività, no? Vedere queste attività e quindi neutralizzarle. Neutralizzarle, applicare gli antidoti, ma se non mettiamo questa distanza, okay, è impossibile, impossibile, perché è come essere in un fiume dove la torrente è così potente che ci porta via sempre, no? Non possiamo, non ci affoghiamo sempre. Invece dobbiamo cercare di rimanere in questo fiume, e guardare l'acqua, no? Che passa. Quando l'acqua è chiara si vedono tutto il fondo, i pesci, eccetera. Quindi, però se incominciamo a seguire l'afflizione, si parte. È difficile, è una cosa che viene fatta piano piano. E in quel modo, okay, vedendo, osservando l'attività mentale, così, si vede, si può comprendere anche che non c'è un io. Non c'è un io che sta pensando, c'è solo l'attività mentale, i pensieri che sono generati uno dopo l'altro. Ma questo è un processo, una dinamica mentale, ma non c'è un pensatore, non c'è nessuno che pensa, c'è solo l'attività mentale che si riproduce, che sorge uno dopo l'altro, no? Istanti di coscienza uno dopo l'altro, non c'è un io. Quindi questi sono i piazzamenti ravvicinati della consapevolezza. Accadimenti della mente. Come? I pensieri sono semplici accadimenti della Esatto, mente. eventi mentali. Sono eventi mentali, non c'è un pensatore, dice così un pensatore, dietro ai pensieri. Non c'è. Noi abbiamo l'illusione che ce n'è uno, esattamente come c'è qualcuno che sperimenta le sensazioni, così c'è un sensore. Dietro le sensazioni c'è qualcuno che gode delle sensazioni, ma no, ci sono solo le sensazioni. Sono solo eventi mentali anche questi, no? E sulla sensazione o sull'attività mentale viene etichettato io. Al di là del nome, cioè non c'è niente che corrisponda al nome, non c'è niente che corrisponda al nome, è solo il nome che esiste in dipendenza sugli aggregati, l'attività mentale, le sensazioni, il corpo, eccetera. Per esempio, no? Davanti allo specchio siamo lì, oh, sono così, sono cos'ha, sono brutto, sono bello. Quindi abbiamo l'io che si identifica al corpo. Va bene? Vediamo se effettivamente l'io è il corpo. Quindi si apre, si prende il bisturi mentale e si guarda che cos'è l'io. L'io, abbiamo questa sensazione, l'io, eccolo. No? Abbiamo l'identificazione, certe volte ci identifichiamo al corpo, certe volte alla mente. Certe volte anche qualcos'altro, cioè nel corpo, nella mente, un appropriatore, no? Un possessore del corpo e della mente. Quindi dobbiamo andare a analizzare tutte queste cose. No? Analizzare. Quindi l'io è il corpo, va bene, che cos'è l'io del corpo? È il cuore, è il fegato, il braccio, gli ossi, i muscoli, ci abbiamo tutte le varie sostanze, ci sono gli occhi, la lingua, il cervello, forse uno arriva a dire. È il cervello, quindi il cervello c'è la parte destra, la parte sinistra, che cos'è lì? La parte destra, la parte sinistra. Poi si può andare a vedere fino all'atomo di carbone che compone, cioè non si trova niente alla fine, non c'è niente nel corpo, non c'è niente che possiamo identificare come un io. Esattamente nella mente non c'è niente che possiamo identificare come un io. In uno schiocco di dita abbiamo 365 istanti di coscienza diverse, con la 65 accordi Hinayana, 365 per le scuole superiori, non c'entra niente, un attimo, cioè non è in contraddizione. Okay? Quindi abbiamo un istante di coscienza prodotto dopo l'altro. Che cos'è l'io? Che cos'è l'io? È il momento presente, successivo, cioè non c'è niente che possiamo puntare come l'io. La coscienza è un risultato. Abbiamo un'impronte, una capacità. Di chiaro conoscitore, c'è un oggetto, c'è un potere sensoriale, boom, abbiamo la coscienza. C'è un risultato. Quindi sia un risultato, non esiste di per sé. Si è prodotto un istante di coscienza è prodotto da cause e condizioni che vengono insieme. Quindi questo significa che non è autostabilito, che non ha un'esistenza vera e propria. Un istante c'è, l'istante dopo non c'è. L'istante prima non c'è e l'istante successivo c'è. Quindi questo significa che non c'è un io vero e proprio come appare in un modo innato, non analitico alla mente ignorante. Ok? Non stiamo dicendo che non c'è un io. Stiamo dicendo questo. Stiamo dicendo che non c'è un io come appare in un modo innato, non analitico alla mente ignorante. Cioè stabilito per via per il proprio potere o le proprie caratteristiche. Andremo più avanti nei dettagli. Una cosa proprio su te, per quegli oggetti che non hanno associato un continuum mentale, sono aggregati materiali anche loro, hanno cause proiettanti, si può parlare di karma, No, karma, puoi parlare del karma solo nel contesto di un essere senziente che possiede ignoranza, solo nel contesto di un essere che prende rinascita dal potere dell'azione. Allora, perché il karma è il karma è il secondo anello, quindi è un'azione quindi un'azione contemplata proiettante motivata dall'ignoranza. dall'ignoranza. Tutto ciò che non è creato, motivato dall'ignoranza non è karma. Non è caso. È la legge di causa e effetto, ma non è karma. Quindi karma è necessariamente incluso nel continuum di un essere senziente. Quindi questo ha le sue Paolo, ciao case, caro. sicuramente delle case, anche nei Vaibhashika distinguono vari tipi di case, 6 tipi di case, 5 tipi di risultato, 4 tipi di condizione, se andiamo nelle divisioni, però non è soggetto al karma. La mia esperienza del tavolo è soggetta al karma. Però il taolo non è soggetto al karma. Nel senso, sì, posso beneficiare del tavolo, nel senso, sì, quando vedo il tavolo, genero dell'attaccamento, eccetera, questo è il mio karma. Ma il tavolo è un fenomeno composto, appartiene all'aggregato della forma. Tutto lì è automaticamente, atomicamente stabilito, è un fenomeno impermanente, è priva di essenza intrinseca, sono le sue caratteristiche. Se avessi posto delle condizioni diverse, sperimenterei il tavolo in un altro modo? Se avessi Sicuramente, per creato questo. esempio, per me, per noi esseri umani, il tavolo è qualcosa sulla quale ci appoggiamo dei strumenti sopra, no? Per altri, è la propria dimora, per altri, è il cibo, quindi un'esperienza completamente diversa dal tavolo, con un'imputazione completamente diversa. Quindi questo Veramente. dipende dal karma e le lore. Imputazione sono anche valide perché non incontrano la nostra. Quindi l'imputazione, per esempio, se abbiamo degli esseri che vivono dentro, Un no? termite. Per esempio, okay? Quindi loro non hanno non imputano questo come tavolo. Il tavolo con la sua definizione, la sua funzione, eccetera, perché tutto questo è qualcosa che condividiamo all'interno di una comunità umana, di esseri umani, di una comunità linguistica, okay? È una convenzione. Siamo messi d'accordo per dire che questo è il tavolo e lo utilizziamo in quel modo. Ma del suo proprio lato, questo fenomeno è completamente privo di questa funzione e di questo nome, di tutti questi attributi che andiamo a proiettare. Perché siamo d'accordo noi, è un accordo comune per utilizzarlo e chiamarlo in quel modo. Ci sono degli esseri dentro, okay? Questi esseri hanno la loro convenzione, percepiscono il tavolo in un certo modo, lo utilizzano in un certo modo, è una convenzione tra di loro, è anche una coscienza valida, anche la nostra è una coscienza valida, e non sono in contraddizione perché non si incontrano. Quindi non possiamo dire che io ho una coscienza valida e l'eternità non hanno una coscienza valida, assolutamente no. Questo c'è una sezione all'interno dell'illuminazione del pensiero di Lamazon Kappa, che è il commentario a Chandrakirti sulla via di mezzo, dove questa cosa viene presa in considerazione con un bicchiere d'acqua. C'è il bicchiere d'acqua, che non è un bicchiere d'acqua, un bicchiere di liquido, e c'è una situazione completamente ipotetica, dove abbiamo intorno allo stesso bicchiere d'acqua un preta, un deva e un essere umano, e ciascuno vede qualcosa di diverso rispetto a questa stessa base. Il deva lo vede dovuto al proprio karma, ai suoi meriti, lo percepisce una porzione del liquido come l'amrita, questo nettare. L'essere umano percepisce una porzione come dell'acqua. Okay? E il preta lo percepisce una porzione come pus e sangue. E tutte queste sono valide, sono imputate sulla stessa base, perché la propria percezione dipende dal karma. Quindi il nuovo che diciamo esistente di per sé, il nuovo non c'è Questa è la un'esterità. prova che del suo lato non c'è acqua, non è acqua, perché altrimenti dovrebbe essere percepito come acqua da tutti gli altri. È come questa penna, no? Se c'è un cane, sì, la butto, c'è il cane, va a prendere, gioca, si fa i denti. Questa è la prova che questo non è una penna intrinsecamente esistente. Perché sì, era una penna intrinsecamente esistente, il cane non andrebbe la percezione che è qualcosa per giocare o per farsi i denti. Cioè, si può scrivere, scriverebbe, altrimenti la lascerebbe, no? Cioè, non è per me questa cosa. Non ha la stessa, non ha, non imputa. Non proietta la stessa cosa sulla base. Lui vede un cilindro di un colore particolare e con questo si gioca, no? Perché questa è la sua imputazione. E tra di loro funziona. Anche tra esseri umani, se noi si prende un essere nella giungla che non ha mai visto una penna, pensa a vedere una Certo. penna, anche se è un essere umano, convenzionalmente però lui non si è messo d'accordo con Certo, noi nella civilizzati sua comunità perché linguistica la sua percezione è valida, Però molto velocemente gli possiamo far capire che la pena si utilizza in un altro modo. Quindi lo possiamo utilizzare in un altro modo, può essere sì, chiamato in un altro modo, però dobbiamo capire se sì, le riteniamo come una percezione valida. Dopo dobbiamo capire se sì, viene ritenuto come percezione valida, perché questa percezione può essere contraddetta da un altro percettore valido, convenzionale, che è effettivamente riconosciuto nel mondo come valido. Quindi, imputare questo, cioè, questo è più avanti. Scusa Olivia, alla fine si è detto che per il prete, per il deve, per l'essere umano l'acqua appare. Non è l'acqua, No, no, è il il liquido. liquido. Quel liquido appare Sì, in un modo in diverso. un modo diverso. Certo. Quindi anche il fatto di apparire è collegato alla loro percezione. Beh, allora, apparire e percezione è la stessa cosa. Sì. Allora, l'apparire o la percezione dipende dal karma. Quindi al preta farà male. Non è che farà male, che non la può utilizzare. Cioè, sangue puzzo, infatti è il problema dei preta, no? Da lontano vedono dell'acqua, arrivano e cioè, è puzzo e sangue, quindi non la possono utilizzare. Ok, all'essere umano fa relativamente bene. Relativamente è vitale, relativamente è vitale. E al Deva fa ancora più bene, fa piacere. Genera estasi. E questo è dovuto al karma. E non è collegata alle caratteristiche che ha quel liquido. Infatti quel liquido non ha caratteristiche del suo proprio lato. E questa è la vacuità. I fenomeni non esistono come appaiono. I fenomeni sono privi di caratteristiche intrinseche, quindi le tue percezioni, tu percepisci il mondo tramite il filtro del tuo karma. Ecco perché certi individui li vedi come delle qualità e altri li vedi senza qualità o come i difetti. Questa è la tua percezione, ha validità solo per la tua mente. Però questo è un vantaggio, perché vuol dire che non c'è nemmeno la sofferenza nelle cose. Cioè, è vero che non ci posso trovare la felicità, però non sono loro causa. Io penso che spesso sia il mondo causa della mia sofferenza, invece non c'è davvero sofferenza di per sé. Non ho capito la domanda, questo è molto pericoloso questo. Cioè, quello che voglio dire è che io sperimento sofferenza solo per causa del mio karma, Esatto, non per come è fatto il mondo di per no, sé in qualche modo. no. Quindi questo è confortante, cioè devo solo Ed riuscire a capire com'è fatto certo davvero il che è mondo. confortante perché hai una via d'uscita. Sì. Cambi le cause, cambia il risultato. Invece di cercare di cambiare il risultato senza cambiare le cause, non funziona. Si cambi le cause, automaticamente il risultato cambia. Abbiamo un karma collettivo è un karma individuale. Il karma collettivo, okay, è l'ambiente che viene comunemente diviso dalle persone, quindi può essere un ambiente piacevole, un ambiente spiacevole, di pace o di conflitto. Questo è il karma collettivo, okay? Degli esseri che sono per la forza del karma si ritrovano in questo luogo e sperimentano le loro allucinazioni. E poi c'è il karma individuale, come uno la sua è legato alla sensazione personale che è dovuta al contatto con quell'ambiente, dovuta al contatto con quella situazione. Per esempio, siamo qui insieme, karma collettivo, andiamo a mangiare insieme, mangiamo la stessa cosa, a uno piace, all'altra non piace. Questo è il karma individuale. Uno non riesce a generare felicità, a un'esperienza di felicità rispetto a una base, invece l'altro a fianco mangia la stessa cosa e riesce a generare soddisfazione. Questo è dovuto a che cosa? Dovuto al karma. Un karma positivo maturo per uno, un karma negativo matura per l'altro, sulla stessa base. Quindi base priva di esistenza intrinseca o di caratteristiche stabilito per proprio lato, del proprio lato. Quindi dal punto di vista del liquido non ha caratteristiche sue. Esatto, niente, Quindi niente, tra... aspetta, niente ha dal potere delle proprie Però dal punto caratteristiche. di vista qualitativo c'è differenza tra un liquido e Cioè, cos'è un liquido. Dal sta punto di domanda? vista della qualità. Beh, sì, tu, sì, noi avevamo abbastanza meriti per sperimentare quest'acqua, invece che, non so, i meriti incrementano e adesso abbiamo la percezione del nettare, certo che è No, intendo qualitativo. che sia tra l'acqua vera di questa bottiglia e l'acqua apicoxia. Diciamo tra l'acqua e il vino. No, acqua, rimaniamo su H2O. Sulla stessa composizione Non chimica. capisco niente di quello che stai dicendo. La Due composizione. qualità d'acqua diverse. Vabbè, due qualità sono qualità d'acqua diverse, no? Cioè, dov'è il problema? Convenzionalmente, Quindi sono differenze di caratteristiche. sì. Convenzionalmente ci sono delle caratteristiche, ma non sono caratteristiche intrinseche. No, nel senso non voglio dire che sono permanenti, Niente però permanente. in quel momento hanno delle caratteristiche diverse, qualitativamente. Come dire, tipo Il l'acqua tavolo, pulita. il tavolo, non so dove stai andando. Il tavolo ha delle caratteristiche, il bicchiere ha delle caratteristiche. Cioè, anche se tu prendi un altro bicchiere, sarà più grande, più piccolo, cioè, ha delle caratteristiche. Uno è verde, l'altro è giallo. No, non parlo di Oh, c'è l'acqua caratteristiche. frizzante, c'è l'acqua piatta. Non so se si dice più piatta. Okay. Questo è Non dovuta, trovo. sono le loro caratteristiche, ma queste caratteristiche dipendono da causa e condizione. Quindi sì, dipendono da causa e condizione, non hanno un'esistenza propria. No, non sto dicendo che hanno un'esistenza propria, però in quel momento cristallizzato ha una qualità superiore rispetto a un altro. Questo è molto personale. Il fatto che pensare che un'acqua è superiore a un'altra. Questo è il tuo karma che te lo fa percepire in quel modo. No, però c'è un altro punto. C'è il problema dell'etica. Sono le 11. Io non devo bere alcolici, per esempio. Sì. Che ne è della mia esperienza personale nel momento in cui la mia mente cambia e percepisco l'alcolico come nettare, che ne so, non c'è più una etica? A quel punto non ti puoi preoccupare del karma. Quando arrivi a quel livello. Non preoccuparti del karma perché significa che hai reso direttamente la vacuità, sei in grado di trasformare gli elementi, eccetera. Quindi, E l'etica come si trasforma? Se una cioè, cioè, a quel quale momento sei senso? un'aria, quindi un'aria, anche se un'aria uccide qualcuno, che è poco probabile, non crea karma negativo, non crea karma che io proietto in seta ciclica. Cioè, siamo nella sfera delle probabilità assurde che un'aria si mette a uccidere gli Sì, altri. certo. Okay, però nel caso, perché è capitato nel passato che dei grandi Bodhisattva aria hanno compiuto delle azioni non virtuose, per esempio c'è il caso del Buddha, no? Abbiamo conosciuto quando era su questa nave, che aveva visto che un mercante voleva avvelenare gli altri per rubarle il frutto del loro lavoro, quindi ha preso di lui il karma di ucciderlo. E questo ha semplicemente accelerato il suo sentiero. Okay? Perché è fatto con una percezione particolare, una mente particolare, in un caso particolare. Non andate a fare quel tipo di cose, perché questo è okay? O anche c'è questo nel lineaggio di una particolare divinità del Manutraya Bhagavatantra, no? C'era un essere che si chiama forse Ralotsawa, no? Quello in Tibet, che era un bodhisattva, cioè, forse o era poco vicino al risultato finale, o era già stabilito nel risultato finale, comunque aveva visto, era all'epoca dei sei yoga di Naropa, aveva visto che c'era un lineaggio che era il trasferire la propria coscienza nel corpo di esseri già morti, Defunti. Ah, ok? sì, sicuramente. E aveva visto che questa pratica si andava portata avanti, avrebbe portato alla degenerazione del Dharma. Quindi ha preso su di lui di uccidere 13 bodhisattva dei terreni puri, che erano detentori di questo lineaggio, per eliminare quel lineaggio del Tibet. Adesso questo lineaggio non c'è più. Ma sicuramente questo è fatto da esseri molto particolari. E quando fanno queste cose si assicurano, significa essere in grado di far prendere rinascita a questi esseri in posti molto particolari, in terre pure, cose del genere. E quindi sono delle condizioni molto particolari. Ok, quindi adesso andiamo a dedicare a... Quindi penso che ne abbiamo finito con i 12 anelli. Ok, quindi la prossima volta che ci vediamo incominciamo il grande scopo. Il grande scopo perché abbiamo già fatto questa sezione. Normalmente adesso c'è una sezione su come si muore, come si prende rinascita, però mi sa che l'abbiamo già visto insieme al momento della morte, questa cosa. Abbiamo fatto questo discorso, l'avevo inserito a quel momento. Quindi la prossima volta vediamo... qual è la misura di aver attualizzato la mente di immersione definitiva, che è il risultato di questo addestramento, e entriamo nella contemplazione addestramento dell'essere di motivazione superiore. Un paio di informazioni, quindi delle buone o delle brutte notizie, dipende, anche questo è vuoto, esigenza intrinseca. Okay? Abbiamo 3 weekend a marzo dove non ci possiamo vedere. Okay, perché le classi di revisione del master sono spostate il sabato e la domenica, quindi io non sono in grado di prepararmi e di farvi le lezioni la domenica sera. Okay? Quindi abbiamo questi 3 weekend, che è il weekend dell'11, quindi la domenica 11, la domenica 18 e la domenica 25 non ci vedremo. E dopo si riparte. Quindi ci vediamo la settimana prossima. E dopo per 3 settimane non ci vediamo, quindi contemplate quello che avete. Ce n'è. E poi continuiamo. Se la prossima settimana ci porti Ok. Dove ti porto? Da no, nessuna facciamo dei test alla fine di questo. Ah, volete il quiz? Nel senso, si può fare dopo le 3 settimane di pausa. Va bene, ok. Ok, quindi, okay. Quindi l'ultima domenica di marzo, no, sarà la prima domenica di aprile. Prima domenica di aprile, ci sarà il quiz che riprende le contemplazioni e l'addestramento dell'essere di motivazione intermedio. Quindi questo significa che venite 45 minuti prima, quindi venite verso le 8 e mezza, no, le 8 un quarto. Le 8 un quarto, ok? Ok, alle 8 vi do il foglio, io me ne vado e poi torno alle 9, prendo i fogli e andiamo avanti con la lezione. Quindi andiamo a dedicare a queste virtù che abbiamo accumulato per fare che molto velocemente inneriamo la mente di bodhicitta, la resistenza della vacuità, che questi menti che sono già stati generati non degenerano ma non si incrementano. Andiamo a dedicare le nostre virtù a... finché otteniamo l'illuminazione completa per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, andiamo anche a dedicare per la lunga vita dei maestri autentici che insegnano i veri sentieri verso le vere cessazioni, che i loro desideri si realizzano, e andiamo anche a dedicare perché fare in modo che l'insegnamento del Dharma dimora a lungo in questa vita senza degenerare. Gyawadi Anyodo Dalama Sangye Drugyone Ravaji Dhyamalupa Deye Salangamaji Jamjo Semjo Rinpoche Amakye Panam Gyeyuchi Nyamba Nyamba Nyamayang Gane Chenre Zivon Tenji Gyatso Ye Shambhe Site Do Den Yuji Daso Chinye Sambhe Gyawadi Demdam Drova Kuna Gambedo Nyama Jecho Losan Dramayi Tembe Nyambo Rindu Selje Jo. Grazie.